società municipalizzate, nelle quali 4 quinti in perdita, nelle quali il potere locale non si è fatto mancare nulla e quindi ha replicato il disastro delle società pubbliche controllate che per decenni hanno fatto distruggere valore. Ricordate l'IRI? Ecco, appunto. A livello locale ce ne sono migliaia di società così. E da anni i matti come me dicono, beh, forse bisogna accorpare, privatizzare, accorpare. Salta fuori un emendamento nel quale il governo costituisce un altro fondo chiuso presso la Cassa Depositi e Prestiti, come quelli delle finte privatizzazioni annunciate dal governo Monti, col quale si dispone il meccanismo volontario o coattivo di trasferimento delle quote dei comuni e delle autonomie nelle società municipalizzate o dei servizi pubblici locali, trasferimento o coatto o volontario, dove per coatto non si capisce quale sia il meccanismo per cui lo Stato si ripiglia tutto e lo Stato si rimette in pancia alle società municipalizzate. Detto questo, ne diminuiremo l'inefficienza? No! Le privatizzeremo? No! Ma qui, naturalmente, lo Stato, mano destra, mano sinistra, quando si tratta di cedere del suo, non capisce nulla e continua a spacciare per privatizzazioni cose finte, fittizie, che sono semplicemente cambiare dalla mano destra alla mano sinistra. Tanto a pagare siete sempre voi. Poi mi dicono che io sono un ideologico, ma sentite, abbassiamo un secondo il tono e prima di cominciare rendiamo onore al caporale Tiziano Chiarotti. Ieri, la 52esima vittima, italiani che indossano la divisa in Afghanistan, della Taurinense, un reparto degli alpini al quale mi lega un sentimento molto profondo. E devo dirvi la verità, ogni qualvolta un italiano in divisa, nella nostra disattenzione generale, in questi anni, cade per la nostra bandiera la pace e la libertà, che non sono parole vuote per chi indossa la divisa, e non è vero che chi indossa la divisa lo fa solo per fame, come i giornali si ostinano ogni volta a scrivere, ma lo fa perché ci crede, crede nei valori di una comunità, da testimoniare fianco a fianco per le esercitazioni che si sono fatte, insieme a chi ti sta a fianco perché ti coprirà, quando e se sarà il momento, quando e se non farai guerre di aggressione, ma il tuo paese ti chiamerà a svolgere missioni di questo tipo ogni qualvolta uno di loro se ne va, è una campana che suona per tutti noi. Perché questa è la maniera più elevata di dimostrarsi cittadino della Repubblica Italiana. E noi dobbiamo essere molto grati a chi svolge il supremo sacrificio, perché non è una questione di retorica. È una questione che ha a che vedere con una scelta di vita portata avanti fino alla fine. Scusate se mi commuovo su queste cose, però purtroppo sono fatto così. Allora, cambiamo argomento. Cambiamo argomento. Tiziano, una preghiera anche per te. Oggi è Sant'Alfredo, quindi un auguro a tutti gli Alfredo. E devo dire ancora due parole prima del tema del giorno del primo ospite. Troverete oggi sui giornali, a proposito di una cosa di cui non mi sentite più parlare, perché io ho parlato per un anno e mezzo di un'offerta politica modificata dal basso, ma in questi mesi, cui mi sono poi impegnato, insieme a tanti altri a farla, ovviamente qui faccio giornalista e non mi avete mai più sentito parlare. Oggi però c'è uno sviluppo di fronte al quale devo dire solo due parole. È uno sviluppo, poiché abbiamo detto per tanto tempo, no, di fermare il declino, è Oscar Giannino che lo ha fondato, che occorreva una proposta più ampia di rifondazione dell'offerta politica dal basso. Questo primo passo è stato compiuto, ma all'ultimo secondo ieri sono stato scaricato, o meglio, di fronte a Italia Futura fondata da Montezemolo, di fronte al convergere su un testo di Italia Futura, al quale hanno trovato assolutamente accordo secco la CISL di Bonanni, movimenti cattolici come le ACLI di Fornero, il ministro cattolico che sta nel governo Monti per la comunità di Sant'Egidio e altri, tanti altri. Questo documento mi è stato presentato, malgrado l'idea fosse nostra da tanto tempo, in maniera tale da essere inemendabile di fronte alle elementari richieste che chi mi conosce sa avrei fatto, di cessioni pubbliche per abbattere il debito pubblico, di cambio di politica di spesa di tasse rispetto a Monti, di discontinuità della politica. Tre cose secche. Il testo è stato no, grazie. Evidentemente Giannino è di troppo e Giannino resta di troppo. Faccio i miei auguri a Italia Futura, che trovate oggi sui giornali descritta come Montezemolo al Corriere della Sera come la grande offerta della Terza Repubblica. Io credo che sia una furbata, per non dirvi la verità. Se si tratta di fare una nuova democrazia cristiana nell'assoluta abulia e opacità dei programmi, si accomodino. Io continuo a fare il mio mestiere e qui chiedo venia, perché dovevo dirvelo, nel senso che qualcuno potrebbe pensare altrimenti di leggere solo sui giornali e io fossi un alias. Non sono un alias, penso quello che penso, sono tagliente e penso che quel cambio di marcia al paese lo meriti e ci vuole gente della società che parli con un linguaggio più chiaro. di quello opaco dei signori dei partiti e dei sindacati, che se non vogliono mettere nei loro documenti condivisi che bisogna abbattere il debito cedendo pezzi dello Stato e mettendo il merito nella pubblica amministrazione, anche la frase sul merito nella pubblica amministrazione mi hanno levato, vuol dire secondo me che non hanno capito, vogliono semplicemente sostituirsi agli attuali. Spero di sbagliare e se mi sbaglio ne renderò volentieri conto. Allora, tema del giorno. Iniziamo dal no pronunciato ieri alla Commissione bicamerale per gli affari regionali su il testo presentato dal governo. Lo sapete, dopo gli scandali dei regionali, il governo ha presentato un testo che alla prima lettura a molti è sembrato una forzatura rispetto alle competenze del titolo quinto della Costituzione, che è quella grazie al quale abbiamo avuto la più totale autonomia e si è aperta la forbice di ciascuno che può decidere i costi della politica e come spendere nei servizi generali. Però sta di fatto che sembrava un corso obbligato quello di questo testo, e invece sorpresa ieri nei vari no che il Parlamento pronuncia a raffica sui testi oramai della legge di stabilità, è venuto anche il no della bicamerale per gli affari regionali. E oggi i giornali ne danno variamente conto dicendo l'argomento è istituzionale, però parliamoci chiaro, è il taglio alle decisioni che le regioni possono assumere in merito ai costi quello che alla politica non piace. Però questo è, diciamo, la semplificazione giornalistica. Abbiamo con noi Luciano Pizzetti, che è il deputato del PD, componente della Commissione bicamerale per gli affari regionali ed è stato anche relatore del decreto in questione, di quello sui tagli alle regioni, che io saluto e ringrazio per essere con noi. Buongiorno onorevole Pizzetti. Buongiorno. Ecco, allora ci spiega un secondo, ovviamente tenendo conto del fatto che chi a casa e ha dato anche solo un elementare scorso ai giornali ha visto che siete presentati come quelli che dicono no, non ci facciamo tagliare i costi delle regioni. Ma invece l'argomento qual è stato? Guardi, infatti è esattamente il contrario. Noi nel parere che abbiamo dato abbiamo salvaguardato l'articolo 2, che è quello che produce i tagli, i vitalizi, tutte queste cose qui sostanzialmente, e abbiamo invece detto no agli articoli 1 e 3 perché lì c'è un'invasione tremenda dentro le opportunità, le possibilità, le capacità di decisione delle regioni. Sostanzialmente, per dirla con una battuta, con un decreto si ammazza non solo il federalismo in Italia, su cui possiamo anche discutere, ma si ammazza anche una storia della Repubblica costruita sulle autonomie e sul regionalismo. Questo non può essere fatto con un decreto, per cui noi abbiamo detto al governo vai avanti sull'operazione dei tagli, ma su questi altri aspetti fermati e discutine con le regioni e con le autonomie. E infatti Vasco Errani, presidente della Regione Emilia Romagna, nonché coordinatore capo, diciamo così, di tutta, ha detto, cioè l'ha dato già per bocciato e ha detto il governo qua non ci ha sentito, non ci ha voluto sentire, come facciamo? L'impressione che si è avuto, scusi, le faccio una domanda, ecco, non voglio metterla in imbarazzo come rappresentante del Parlamento. Quando il governo, ovviamente era evidente, quando il governo ha varato quel testo, era evidente, l'ho detto all'inizio, che c'erano delle forzature, ma si disse, per la vicinanza che il governo Monti ha su queste cose un po' delicate costituzionalmente con il Quirinale, che è un fatto, non è una mia opinione, l'abbiamo visto in molti passaggi delicati in questi ultimi 11 mesi, quindi non lo dico per come illazione giornalistica, ma molti pensarono, sicuramente all'interno del governo sanno che stanno intervenendo su competenze, insomma, delicate dal punto di vista le attuali attribuzioni costituzionali. Però il segnale che il governo, d'accordo con il Quirinale, intende mandare è: cari signori delle regioni, avete appunto fino al 30 ottobre, tanto che il tempo era dato alle regioni per adeguarsi, era precedente al tempo di approvazione tecnica del decreto, quando anche voi non aveste dato il parere che avete dato invece ieri. Eppure si disse, è veramente il segnale, bisogna immaginare che ci sia stato una specie di segnale riservato per cui regioni, mettetevi in condizione di fronte ai vostri cittadini, elettori e contribuenti di mettervi al passo prima ancora che il decreto venga approvato, così a quel punto il decreto non è una forzatura. Ma chi ha pensato così all'atto di della lettura di quel decreto? Sbagliava integralmente, evidentemente, o no? Beh, sbagliava nel fatto che al di sopra di ognuno c'è la Costituzione, e la Costituzione nel suo titolo quinto parla molto chiaro, le forzature non possono essere, tanto più per un decreto, non possono essere imposte. Questo è il clou della cosa, non è in discussione, le ripeto, l'elemento di taglio, l'elemento delle convergenze, assolutamente no, anzi. Noi nella prima bozza di parere avevamo messo anche di accentuare l'elemento di taglio, ad esempio su tutta la partita delle commissioni speciali nei livelli regionali. Poi questa cosa l'abbiamo tolta per il semplice fatto che abbiamo detto si proceda consensualmente in tutto questo comparto, in questa direzione. Quindi per noi, insisto, il tema non è limitare l'elemento di taglio, anzi. nel parere c'è appunto si va, si proceda, e c'è anche una critica alle regioni in questo senso, del dire non dovete attendere il governo, voi dovete fare. Il punto, insisto, perché nonostante sia complicato di questi tempi, perché può passare come la difesa della casta, io me ne rendo ben conto, ma c'è un punto sopra ogni altra cosa, che la Costituzione non può essere stracciata sulla base di un giustificato sentimento popolare. Lei ricorderà che fino a un anno fa in questo paese erano tutti federalisti e tutti regionalisti, improvvisamente sono diventati tutta un'altra cosa. Allora dico, non è che Fiorito, Zambetti e tutta la porcheria che c'è può essere il cavallo di Troia per affossare federalismo e regionalismo. Casomai deve essere la consapevolezza, deve maturare in tutti la consapevolezza che la politica nel suo rapporto con l'etica e con la moralità pubblica deve adottare strumenti. Noi lì gli abbiamo detto gli strumenti, questi strumenti devono essere adottati, devono essere mantenuti. Gli abbiamo detto però sulla parte relativa contro Corte dei Conti, ma lei sa che c'è una norma che dice che addirittura il responsabile finanziario di un comune per essere tolto serve l'assenso del livello nazionale del governo? Sì, sì, questo purtroppo lo sapevo, perché più volte mi ci sono imbattuto questa notte. Il problema è che stiamo tornando allo Stato prefettizio, allora non è che dalla Repubblica Federale si torna allo Stato prefettizio. Oh, allora, qui c'è un ragionamento di fondo che io capisco benissimo, tant'è vero che anch'io temo molto che il bilancio di questi 18 anni di federalismo a chiacchiere, diciamo così, possa essere di fatto quello che si vede, cioè un centralismo dirigista ancora più rigido, perché questo certo. Si vede in tutte le manovre, è chiaro, bisogna preservare i saldi, però è così. Quando arriviamo però alla questione dei controlli, lei l'ha appena sfiorata adesso parlando del Corte dei Conti, perché ieri su questo voi avete fatto delle osservazioni proprio nella parte dell'articolo del decreto che prevedeva che la Corte dei Conti fosse chiamata a operare un controllo preventivo di legittimità sugli atti normativi di programma delle certo. regioni. Allora su questo chiariamo un secondo, perché anche questo ai cittadini arriva come l'idea: ah cacchio, volete che le cose avvengano senza che la Corte dei Conti ci metta un naso prima? Ma no, assolutamente, la Corte dei Conti può esercitare le sue funzioni, ma se io vado al controllo preventivo io perdo l'autonomia. Tu fammi il controllo e poi stabilisci che decado, mi fai pagare tutto quello che mi devi far pagare, mi mandi a casa, fai quello che devi fare, ma se mi fai il controllo preventivo sull'atto vuol dire che io la mia autonomia l'ho già perduta, e prima di compiere ogni scelta di governo lo vengo a chiedere a te, Stato centrale. È concettuale la cosa, non è in termini di evitare la moralizzazione, la verifica, tutt'altro. Però lei ben comprende che se passa un concetto di questo genere, tutta quella parte lì della Costituzione la pigliamo e la buttiamo nel cestino. Anche perché allora, io su questo la penso esattamente come voi, perché siccome c'è il collegamento anche al ruolo della Ragioneria Generale, che già è titolare praticamente della politica economica a livello nazionale, visto che i testi dei provvedimenti li scrive lei, c'è la bollinatura preventiva e successiva, se mettiamo anche la Ragioneria Generale nei controlli preventivi a livello locale, abbiamo fatto la dittatura per quello che riguarda i provvedimenti economici. Questo lei non lo può dire. Ma lo dico io, perché effettivamente la mia esperienza di questi anni, perché nel testo c'è e anche la Ragioneria Generale, non solo il controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti era previsto, è vero? Sì, certo, sulla parte relativa appunto a responsabili finanziari dell'amministrazione. Allora, a questo punto le chiedo solo, quale sarà la previsione dell'iter secondo lei, il governo come risponderà? Lo so che ce lo chieda il governo, però insomma da quello che avete capito? No, intanto il nostro parere è andato come sale commissione di merito l'affare istituzionale della bilancio, i quali stanno scrivendo il testo. Il decreto ovviamente passa al vaglio delle diverse commissioni ed è prassi, confermata anche dal Presidente della Repubblica peraltro, che il governo poi acquisisce quelli che sono i pareri, lì darà i suoi pareri, ma alla fine acquisirà quelli che sono gli atti della commissione. Il Parlamento non è che dipende dal governo, casomai è il governo che dipende dal Parlamento. Le faccio anche una, se mi permette, un'osservazione: è molto più popolare andare a fare l'operazione taglio taglio con quello che sta accadendo che non dire fermati, ma non fermarti sui tagli, fermati sulle procedure. Ieri mi dicono, ma in questo modo lei, i partiti vogliono essere più popolari? No, tutt'altro, noi stiamo sfiorando ancora di più l'impopolarità, ma ci sono dei punti sui quali non si può transigere, altrimenti non c'è più una regola in questo paese. Allora, io spero che sia stato chiaro, hai molti di voi che vedo che dagli sms però continuano a dire no, questi hanno detto no ai tagli, che c'è una questione di merito, i tagli vanno fatti, però bisogna che ci intendiamo che se vogliamo tornare al centralismo non napoleonico, buffonico, questa è la strada giusta. Quindi secondo me invece per un equo bilancio del federalismo, io che sono contrario alle autonomie intese come ogni regione decide di pagarsi i consiglieri regionali e i presidenti e gli incarichi come vuole, perché è ridicolo, perché abbiamo una forbice di costi e attribuzioni pazzesca, per cui abbiamo delle regioni in cui il consigliere regionale prende 7.000 e pochi euro in più e ce ne sono altre in cui si arriva a 15.000. Io che sono contrario dico però che sono anche contrario al fatto che questo si faccia a colpi di decreto legge, perché questo è un principio che nel dare risposta all'istanza dei cittadini incazzati lede ulteriormente un edificio scassatissimo, visto che noi non abbiamo dato alle autonomie i principi dell'autonomia finanziaria, gli strumenti, li tagliamo, decide la ragioneria generale tutto, decidiamo che cosa vogliamo fare in questo paese, perché così lo portiamo solo al collasso, e questo è un motivo aggiuntivo di collasso rispetto allo schifo che viene dai soldi depredati dagli uomini dei partiti quando sono incorrono nel codice penale, cioè molto spesso. Vi posso fare una domanda? Ma se fosse, che ne so, l'onorevole Alfano, che adesso si deve affannare per queste primarie del PDL, verso le quali sono, devo dirvi la verità, molto critico, perché ve l'ho già detto, credo che con il fondatore e finanziatore che restano al partito siano solo un criterio per il quale fare stabilire i pesi per poi fare correnti alla mano le candidature, visto che un bel po' di parlamentari resteranno a casa, visto che la candidatura a fare il leader del partito lì non c'è. Allora, detto questo, ma se l'onorevole Alfano, che adesso si deve sperare che in Sicilia di non perdere troppo e di non perdere la faccia, e credo che invece avverrà domenica, all'onorevole Alfano capitasse qualcosa di simile a quello che capita all'onorevole Bersani, con la segretaria pagata dalla regione Emilia-Romagna per occuparsi invece del partito e delle primarie di Bersani, voi pensereste che sui giornali ci sarebbe un rilievo così secondario tutto sommato come quello che riguarda Bersani, o lo troveremmo sparato dovunque con richieste tonitruanti di non partecipare alle primarie del PDL e così via? Allora ve lo dico non perché c'è il mio riflesso condizionato di destra e sinistra, ma perché continua a colpirmi il doppio pesismo italiano. Ripeto, direi lo stesso, come mi è capitato di dirlo, quando invece è il centrodestra che viene trattato guanti in mano. Per esempio Fini, che dice che quella della sua è una storia personale, non si deve dimettere, è una roba, se Fini osa parlare di discontinuità, e Casini osano parlare, che è il suo alleato, osano parlare di discontinuità, mi viene da morire dalle risate, perché capite, un fatto personale quando si parla di pezzi di un'eredità data al partito, da finanziatori del partito di cui era leader, fatto personale quello è, con questo criterio voi capite. Eppure anche Fini, da che poi sta di là invece che di qua, è un pezzo di destra ai quali si abbona quello che prima non si abbonava. Quando l'Italia, ma anche i media, i miei autorevolissimi colleghi di giornali nei quali non metterò mai piede perché non ne sono all'altezza ovviamente, capiranno che il criterio del doppio pesismo non è un criterio da seguire, e che forse, per esempio, delle regionali siciliane il criterio da seguire, mi permetto di dirlo, era quello dei colleghi del Fatto, che pubblicando le liste degli indagati, condannati, arrestati per reati così gravissimi, secondo me contribuiscono ad aprire un po' più gli occhi di quanto non si faccia con astruse fumisterie sul candidato Crocetta o la candidata della CGIL che sta con Crocetta rispetto a quella della FIOM che sta con la SEL. Secondo me la radicalità del fungo nucleare che si leverà dalla Sicilia domenica, per merito di Grillo, che gli va riconosciuto, il Movimento 5 Stelle, sarà tale che forse anche i miei colleghi inizieranno ad assumere un atteggiamento meno superficialmente astioso nei confronti della pura polemica, che è considerata di colore. Siamo dei poveri estremisti noi che la pensiamo così. Invece beccatevi quelli che appunto continuano a far fare alle segretarie a spese dei contribuenti gli affaracci personali, oppure prendono pezzi di patrimonio dei partiti e dicono che è un fatto personale, se poi se le fanno comprare dai generi. Comunque, detto tutto questo, andiamo a un altro bel tema in questi giorni in cui naturalmente, come vedete, la legge di stabilità del grande Monti, che molti indicano come futuro, viene fatta a pezzi. Ieri abbiamo trattato dell'abrogazione venuta dalla Corte Costituzionale della mediazione obbligatoria. Ho ricevuto moltissime lettere lettere, mail di avvocati furenti, perché dicono: Giannino, ma che cacchio di liberale sei? Ma come? Quella era una mediazione obbligatoria e quindi era obbligatorio, elevava la libertà di scelta rispetto al cliente. È ovvio che l'avvocatura gode, perché l'avvocatura gode, perché la mediazione obbligatoria era un danno patrimoniale portato agli avvocati. Detto questo, io ho semplicemente messo in berlina e mi incazzo come una iena di fronte all'idea che mille imprese hanno preso sul serio la parola dello Stato che ha reso la mediazione obbligatoria e quindi hanno messo su in piedi quello che serve adempiendo la legge, e dopo un anno e mezzo arriva la Corte Costituzionale e dice: tutti a casa, io me la sono presa con l'insindacabilità asimmetrica di Sua Altezza lo Stato Sovrano, la cui parola, se gli credi, commetti il triplo errore rispetto al fatto se non gli credi. Solo il fatto che se non gli credi lui ti persegue, e se gli credi lui ti butta per strada, come capita in questa cosa. Allora torniamo su questa vicenda, perché con noi Marco Pozzuoli, che è il responsabile dell'organismo di mediazione CRA, Conciliatori Romani Associati. Buongiorno e grazie. Buongiorno Toggiannino, buongiorno a tutti. Allora, ci dica, ovviamente è chiaro che voi siete di parte, perché siete investiti in pieno dalla sentenza della Corte Costituzionale. Lei quanto ci aveva messo in questa faccenda, credendo allo Stato? Beh, indubbiamente tantissimo. Direi che sono 2 anni e mezzo da quando è uscita la prima normativa che, credendo in questa normativa, credendo nello Stato, credendo nella virtù deflattiva della mediazione, ho investito soldi, tempo, tutte le mie fatiche giornaliere per portare avanti una cosa in cui credevo. Lei si immagini che da dove è partito questa voglia di crederci e di fare la mediazione? Beh, è partita dal fatto che, secondo il rapporto Doing Business 2012 della World Bank, si rivelava che l'Italia, come lei ben sa, è all'87° posto nel 2012 nel mondo per facilità di investimento, dopo la Mongolia e prima della Giamaica. Questo perché in Italia, secondo questo rapporto, sarebbe più difficile, visti i tempi dei processi civili, recuperare un credito che derivi da una dispute di tipo commerciale. Sono 1200 giorni in Italia di tempo per ricevere una risposta giudiziaria in merito, contro i 399 dell'Inghilterra, i 394 della Germania, i 331 giorni della Francia. Quindi il costo per le imprese dei ritardi della giustizia in questo senso è di 2,3 miliardi di euro l'anno, quindi circa 371 euro per azienda. Ora, questo non è accettabile, e quindi ho creduto nel sistema deflattivo della mediazione. Ho costituito un'impresa che si è data da fare, che ha sede a Roma, a Viterbo, e in questi mesi ha cominciato a fare convenzioni con altri organismi, si trovano a Torino, a Milano, a Catanzaro, e si è mossa perché la mediazione è un qualcosa che aiuta il cittadino. Aiuta il cittadino ad avere in un tempo massimo di 4 mesi. Quello che nei tribunali ci vogliono 10 volte tanto, 4-5 anni. Altrimenti avrebbe in 4-5 anni se andasse in tribunale. E non è vero che è un costo per il cittadino, è un aiuto, perché deve solo pagare 40 euro i diritti di segreteria secondo norma e poi delle piccole quote a seconda del valore della lite. Quindi intendiamoci, secondo i dati del Ministero della Giustizia, dati ufficiali, tra marzo 2011 e marzo 2012, quindi in un anno, ci sono state più di 91.000 controversie risolte tramite mediazione, e per la prima volta dal 1950 sono diminuite le pendenze civili nei tribunali in Italia. Purtroppo in Italia però ci sono, come lei ben sa, delle caste occulte, che non sono quelle dei politici, sono altre caste occulte che frenano la possibilità di andare avanti. Quindi aziende possono investire in Inghilterra e in Francia, in cui la mediazione è andata avanti, e in Italia no. Si immagini, e faccio sempre riferimento a dati del Ministero, dati comunque verificabili, che nell'ultimo anno, da quando c'è stata l'obbligatorietà della mediazione per alcune materie, come ad esempio quella per risarcimento danni in materia assicurativa per veicoli natanti, le mediazioni sono aumentate del 644%. In Italia il 77,2% delle mediazioni vengono fatte per le materie obbligatorie. Ora, senza la obbligatorietà della mediazione, lei capisce che le imprese non possono andare avanti. Imprese che lavorano anche per i cittadini, anche per lo Stato. Noi abbiamo creduto nello Stato e nel giro di pochi giorni ci ritroviamo a dover dire alle segretarie che abbiamo assunto, ai mediatori che abbiamo assunto, purtroppo andate a casa. E infatti questa è la parte più amara. Io desidero dire ai tanti avvocati, la cui rappresentanza naturalmente è esultante, e mi piace ancora una volta sottolineare che non è così per quello che riguarda invece l'ordine dei commercialisti e dottori contabili, che ancora una volta ai miei occhi conferma la differenza rispetto al corporativismo che pervade il più della rappresentanza invece degli avvocati. Agli avvocati che mi accusano di essere illiberale sottovalutando l'illiberalità della obbligatorietà che era prevista per la mediazione, la risposta banale è che se non fosse stato così, a prescindere dal fatto che io difenda o meno questo istituto, io non lo difendo, ma detto questo, senza obbligatorietà, come ovvio, senza obbligatorietà, l'alternatività di procedibilità di questo tipo di forma di conciliazione verrebbe meno, perché è ovvio che nell'ambito della pura volontarietà, ma voi capite che i potenziali soccombenti non si presentano, punto, ed è questo quello che avverrà, come ovvio, con la mediazione volontaria su cui è intervenuto ieri il ministro Severino dicendo diamo un incentivo alla mediazione volontaria. Questo che era una via deflattiva rispetto all'intasare i tribunali, è una via anche meno cara. Senza l'obbligatorietà praticamente gli levi il 99% della sua reale portata di alternatività rispetto al rito. Questa è la cosa di fondo, la cosa intollerabile è questa leggerezza con cui noi pretendiamo che migliaia di persone diano retta allo Stato e poi gli diciamo ci siamo sbagliati, mandatevene a quel paese. È come quello che è avvenuto ieri sull'articolo 62, per cui lo Stato, che non paga un euro dei suoi debiti, pretende che i privati lo facciano in 30 giorni, per di più moltiplicando gli atti con cui lo devono fare, come capita ai ristoratori per effetto di questo Stato che pretende di dettare le norme anche su come ci si siede sul water, ma lui invece la può fare dovunque. Questo è il punto. Allora io ringrazio e continuerò a stare vicino agli organi della mediazione, ai responsabili degli organismi di mediazione e ai loro dipendenti. Li invito a organizzare proteste secche, ad andare sotto la Corte Costituzionale a vedere se qualcuno di loro riesce a farsi arrestare da qualche cellula. Troppa pazienza agli italiani che si fanno prendere per il culo dallo Stato, troppa. Ed eccoci qua, this is the end. E voi dite che si porta male, ma non so se porto male io. Certo, Jim Morrison non ha portato molto bene a se stesso, ma al di là di questo la toglierò quando vedremo come saranno andate le politiche. L'ho beccato fino alle politiche, il rischio c'è fino alle politiche, poi magari non ci sono io, magari può essere che il mio contratto finisce tra poco, quindi può essere che sparisca Jim Morrison, che sparisce anche la mia di voce, in quel caso nessuno è sostituibile, ovviamente. Allora, è con noi un libero professionista, Alessio Farin, che ci ha mandato una bella lettera nel come e nel perché abbia deciso di svolgere l'attività di libero professionista, perché l'azienda in cui lavorava stava entrando in crisi, e ci ha mandato i suoi conti, e sono conti sui quali riflettere. Io lo ringrazio, Alessio, per essere con noi, perché fare la riflessione sui conti rende chiaro quanto i conti presunti dello Stato nelle tasche del professionista, quelli che poi vengono dati in pasto perché la gente ci crede, siano molto diversi dalla realtà quotidiana del libero professionista solo con se stesso alle prese con la crisi italiana. Buongiorno Alessio. Buongiorno. Allora, riepilogaci un secondo, come te la campi con queste belle tasse e come ce la fai davvero a portare a casa cosa? Vabbè, fondamentalmente il problema è nato proprio negli ultimi giorni, quando mi è arrivata un avviso bonario da parte dell'Agenzia delle Entrate e mi sono rivolto al mio commercialista per capire come mai. E lui mi ha fatto notare che effettivamente non avevo versato dell'IVA nell'anno 2010, ho detto vabbè, vediamo un attimo a questo punto tutti quanti i conti, perché a me appunto i conti non tornano. E da lì insomma ho cominciato a dire vabbè, adesso pago tutto quello che c'è da pagare, però da questo punto in poi voglio capirci chiaramente. Mi sono messo a fare un po' proprio i conti della serva, dicendo vabbè, vediamo quanto dovrei guadagnare, quali sono i miei costi, quali sono i costi poi deducibili, quali sono quelli che non sono deducibili ma che sono comunque costi di impresa. E da lì è venuto fuori che praticamente io andavo a guadagnare un 24.000 euro lordi, quindi un utile lordo di 24.000 euro, che fatti due conti alla mano alla fine venivano fuori che venivano sì e no 800 euro al mese in tasca. Chiaramente a questo punto io ho detto no, così non ci può andare avanti. Parlando poi con altri miei colleghi, chiedendo pure a loro, ma ragazzi, ma poi come va, come non va, perché io mi sono fatto due conti, qua ogni anno mangio soldi anziché guadagnarli. E loro, guarda, adesso noi siamo tutti disperati, perché sì, tanto andiamo in giro, facciamo i belli, facciamo i bravi, ma in realtà non ci va avanti. sono la settimana scorsa a Milano a trovare dei colleghi che lavorano anche loro lì e tutti quanti nella stessa condizione. Ma ragazzi, ma non è possibile che nessuno parli di questa cosa? Qua sembrano che i professionisti, gli autonomi, sembrano che siano quelli che abbiano il reddito migliore in Italia, invece in realtà siamo quelli che siamo messi in testa. E quindi qua si dice, bisogna fare qualcosa, perché così effettivamente nessuno si rende conto, perché la gente pensa che noi guadagniamo 40-50 mila euro all'anno, quando in realtà tutti quanti viviamo in un appartamento con altre 4 persone. Tutti viviamo ancora a casa con i genitori. La situazione è questa, insomma, alla fine, no, basta a questo punto. Allora, quindi, non ho permesso io di scrivere questa lettera, perché non è un problema solamente mio, ma è un problema di prendere l'80% dei professionisti e dei autonomi d'Italia. Ecco, tutto qui. Allora, qui la faccenda è dire a tutti, guardate cari ragazzi, che qua noi siamo intorno a cifre di poco più di 22, 23, 24, 25 mila euro lordi, non il doppio come pensate, corretto Alessio, me lo confermi? Sì, lordi. Allora, qui la tua conclusione era, che cosa dovrei fare, visto che sono diventato libero professionista di fronte alla crisi di un'azienda? Dovrei o aumentare la mia tariffa, ma come al solito quello che ci guadagnerà di più è lo Stato, oppure diventare dipendente, la seconda mi sembra più plausibile. E questa è la via d'uscita, Alessio? Ma fondamentalmente sì, oppure aumentare chiaramente le ore di lavoro nei confronti dell'azienda, ma un libero professionista oggi come oggi non riesce a lavorare più di 3 giorni a settimana, nel senso che tra attività amministrativa, tra quello che può essere l'attività di sviluppo della propria professionalità, quello che può essere la ricerca di nuovi clienti, chiaramente ti occupano 1 o 2 giorni a settimana. Sì, noi possiamo investire chiaramente anche sabato e domenica, perché ormai siamo abituati e continueremo a farlo, però comunque non è la via d'uscita, perché abbiamo comunque chiaramente una famiglia, abbiamo comunque una vita privata, eccetera. Quindi 3 giorni a settimana ormai diventa un po' lo standard di quello che un libero professionista lavora, quindi mi sembrava che aumentare si può, ma poi crea, visto che ho già fatto in passato di lavorare anche 4-5 giorni a settimana per dei clienti diversi, chiaramente diventa problematico, perché chiaramente tutti quanti hanno le loro urgenze, tutti quanti non riescono a programmare perfettamente tutto, quindi non si può fare. Quindi 3 giorni a settimana sono effettivamente quello che il libero professionista, un autonomo, riesce a fatturare. Allora, quindi, Alessio, di fronte a questo naturalmente lo Stato manda le cartelle, perché dice non è vero, stai mentendo, guadagni di più. Questo è lo Stato, prende e poi nei nostri confronti fotte. Sono brutale, no? E edulcorato chi vi dice che gli appelli a discontinuità sono quelli oggi, Telefutura e CISL, in cui niente di tutto questo, niente. Vuol dire che sono amici dello Stato che non vuole il merito nella pubblica amministrazione. A lunedì, cari amici!